voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Scusate, non partire. Non partire. Ma che tu vuoi? Parli con me. E che si dice? Dove va? Ma che sei scemo? No, sono delle ferrovie dello Stato, devo fare un sondaggio. E il casco che ti serve? Quale casco? Vai, sotto scemo. Thank you. La vidi in piedi nel prato davanti a casa, che faceva roteare la sua mazza. Io e lei siamo andati a fare una corsa, signore, e 10 innocenti sono morti. Dalla città di Lincoln, Nebraska, con un fucile 410 a canne mozze sulle ginocchia, attraverso i bassi fondi del Wyoming, ho ucciso tutto quello che trovavo sulla mia strada. Non posso dire di essere pentito per le cose che abbiamo fatto. Almeno per un po', signore, ci siamo divertiti io e lei. La giuria emise il verdetto di colpevolezza e il giudice mi condannò a morte. A mezzanotte, in una cella della prigione, con delle cinghie di pelle attorno al mio petto. Sceriffo, quando l'uomo girerà l'interruttore e sbatterà indietro la mia povera testa, si accerti che la mia dolce piccola sia seduta qui, sulle mie ginocchia. Hanno deciso che non ero degno di vivere, detto che la mia anima debba essere buttata nel grande vuoto. Loro volevano sapere perché feci quello che ho fatto. Bene, signore, io credo che ci sia solo malvagità in questo mondo. Questa era Nebraska di Bruce Springsteen. I saw standing on the front lawn, just a twirling a baton. Me and her waiting for her ride to intense, and people died from a time. It's out all 14 on my life, through to the badlands of Wyoming. I keep living, hanging my pain. I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while. So me and her, we had some fun. How the jury brought in judge, he sends me to death. Midnight in prison storeroom, leather strips across my chest. Just when the man pulls that sweet song and he snaps my on that bait, he makes up my for he made me sitting right there on my land. They declared me unfit to live, said in a great barn my son's hood. They won't know why I did what I did, so I guess it's just me in this world. E come potevo non farlo? Come potevo non metterlo in Eclettica? Eclettica che è cominciata nella sua seconda parte anche quest'oggi e che è in onda tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Come potevo non mettere Bruce Springsteen, che ha sostituito nelle letture Woody Allen, che ci aveva tenuto compagnia per quasi tutto il mese di agosto? Come potevo non farlo? Come potevo non mettere Bruce Springsteen con una versione, nel caso specifico, particolare dal vivo di Nebraska? Invece questa seconda parte si era aperta con un bel estratto dal nuovo album di The Real Tuesday World, Last Words, il titolo del pezzo che vi siete ascoltati ormai qualche minuto fa. E si prosegue con una novità che non aveva ancora trovato spazio invece all'interno di Eclettica, ovvero sia il nuovo album per Kill Rock Stars ed è il suo primo per Kill Rock Stars da parte di Mary Timony. The Shapes We Make è il titolo di questo album, dal quale ci ascoltiamo il Kill by the Telephone. Yeah.

Giulio Caperdoni, in vostra compagnia per quest'oggi ancora una decina di minuti, gli ultimi passati assieme a Goon Moon, il gruppo uscito nel mese di maggio, per la precisione l'8 di maggio, con l'album dal titolo Leaker's Last Leg. Goon Moon, che vedono al loro interno Jordy White, una volta lo conoscevamo quando suonava con Marilyn Manson con il nome di Twiggy Ramirez, e anche Chris Goss. Sono questi sicuramente i due nomi più rilevanti della formazione Goon Moon. Proseguiamo invece con un membro di un'altra importante formazione degli ultimi anni, sto parlando dei Broken Social Scene. Lui si chiama Kevin Drew ed esce nel mese di settembre, ovviamente per Arts and Crafts, con un album solista che non prefigura assolutamente uno scioglimento della band a cui appartiene. Noi ci stiamo ascoltando da qualche settimana a questa parte e prima o poi cambieremo il brano dal titolo TBTF. You in a time box that's filled. myself for forgetting your name. I will never forgive myself for forgetting your name. Softness, softness, what? Softness, nowhere. Softness, no one. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 45, volume numero 2. Indice, Uncle assieme a Ian Astbury, BC Camp Light, The Cloud Room, Frog Eyes, Art in Manila, The Real Tuesday Weld, Bruce Springsteen, Mary Timony, Goon Moon, Kevin Drew, Montag assieme a Final Fantasy. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.